24 di Giovanni Minoli. Matteo vive a Terni. Ha 18 anni e una patente nuova di zecca. Il 7 luglio alle 8.30 è a scuola per gli orali della maturità. Alle 12 riceve il regalo dei suoi genitori, un viaggio di 3 settimane in Messico. Alle 17 chiama i suoi amici per la serata. Alle 20 è sotto casa di Martina. Alberto e Carlo sono già lì che aspettano. Salgono in macchina e un'ora dopo arrivano nella casa di campagna di Mirko. Festeggiano e brindano al suo esame e al viaggio. Alle 4.15 Matteo si mette alla guida, convinto di essere sobrio. Gli amici dormono. Matteo accelera, vuole superare la macchina davanti, ma i suoi riflessi non funzionano. Sterza bruscamente, perde il controllo e la sua auto va a sbattere contro un platano, spezzandosi in due. Martina, Carlo e Alberto muoiono sul colpo. Matteo è in coma irreversibile. Se hai bevuto, non guidare. Era lo spot drammatico fatto dal governo per sensibilizzare ai pericoli della guida in stato di ebbrezza. Alessia Morani, del PD. Onorevole Morani, la legge di cui lei è relatrice fermerà il trend degli incidenti che è di nuovo in aumento rispetto agli anni scorsi? Ma noi ce lo auguriamo, perché abbiamo visto che altri paesi come la Gran Bretagna ha adottato una legge sull'omicidio stradale molto simile alla nostra, che punisce molto severamente i comportamenti irresponsabili alla guida, in particolare quando qualcuno ha bevuto oppure sotto l'effetto di stupefacenti. Quindi da quell'esempio noi cerchiamo di introdurre una legge che possa avere la stessa efficacia anche in Italia. La legge prevede una pena tra gli 8 e i 12 anni, ma poi sarà applicata? Io credo proprio di sì, perché in questi anni abbiamo registrato una sostanziale impunità rispetto ad omicidi stradali gravissimi. Aver alzato la pena nel minimo così tanto ci garantisce che chi commette questo tipo di reato poi verrà punito. Ecco, lei ha presentato un emendamento specifico su un punto, quello della fuga del conducente. In questo caso cosa prevede la legge? La legge prevede che il giudice possa aumentare la pena da un terzo fino a 2/3, fino ad arrivare ad un massimo di 18 anni. Quindi, insomma, come dire, la funzione di deterrenza, credo che una legge di questo genere ce l'abbia abbondantemente. Ecco, alcol e droga, lo sappiamo, l'abbiamo sentito anche nello spot, sono fattori enormi di distrazione. Ci sono misure, secondo lei, che andrebbero prese specificatamente? Sì, io credo che andrebbero implementati i controlli innanzitutto, poiché soprattutto il sabato sera, per evitare le cosiddette stragi del sabato sera, ci vorrebbero più controlli. Ma soprattutto, secondo me, ci vorrebbe anche un po' di educazione ai ragazzi nelle scuole. Forse noi dovremmo proprio coinvolgere le scuole in un'opera di formazione. Senta, le case automobilistiche però non hanno anche loro una responsabilità sociale? Cioè, noi vediamo degli spot pubblicitari dove le auto volano. Sarebbe ora di disciplinarle un pochino questa pubblicità? Lo si fa per il fumo, sui pacchetti di sigarette? Ma noi intanto abbiamo disciplinato l'eccesso di velocità, poiché chi commette un omicidio stradale... Sì, però la pubblicità è un'altra cosa. Sì, la pubblicità è un'altra cosa. Forse le case automobilistiche dovrebbero fare una riflessione sul fatto che vendendo un prodotto che ha una velocità così grande, soprattutto con dei limiti che ci sono un po' ovunque, insomma, sulle nostre strade, dovrebbero fare un'opera informativa anche loro. Lo si fa per il fumo, dicevo prima, sui pacchetti di sigarette. Beh, insomma, forse varrebbe la pena, no? Assolutamente sì. Onorevole Morani, la polizia ha subito tagli enormi di risorse in questi anni. Questa legge in realtà poi funziona se ci sono i controlli. Allora, se no diventano parole, perché poi nessuno ha gli strumenti per applicarla. Ma noi abbiamo un po' invertito la tendenza rispetto ai tagli del passato, poiché quest'anno saranno assunti quasi 5.000 agenti. Quindi, come dire, abbiamo sbloccato anche il turnover, poiché sappiamo che dal 2009 insomma c'era stato anche il blocco del turnover. Abbiamo invertito un po' la tendenza, abbiamo anche sbloccato i tetti salariali, dando un segnale insomma a questi operatori. Quindi lei dice ci sarà, insieme alla legge, ci sarà anche un po' più strumenti per applicarla? Sì, altrimenti rimane lettera morta. No, sono grida manzoniane, se no. Esattamente. Ecco, stiamo assumendo. Senta, pene per chi è distratto, non da alcol o droga, ma perché telefona, manda un SMS o qualcosa del genere, non è altrettanto grave? Sì, è altrettanto grave. Per questi tipi di comportamenti ci sono pene da 2 a 7 anni. Quindi, come dire, tutti i comportamenti responsabili alla guida sono sanzionati. Noi abbiamo costruito la norma su 3 livelli di gravità, l'abbiamo già detto. Questo è il meno grave, diciamo. Sì, diciamo che questi sono comportamenti che non rientrano negli 8-12 anni di pena e nei 5-10 anni dove sono sanzionati alcuni comportamenti alla guida molto molto gravi. E perché è meno grave, se l'effetto poi è quello? Ma adesso noi abbiamo praticamente preso dagli studi che hanno fatto questi anni, sono stati fatti convegni, soprattutto dalle associazioni delle vittime della strada, alcune tipologie di comportamenti particolarmente gravi, come l'attraversamento con rosso, la guida contromano, l'eccesso di velocità in prossimità di attraversamenti pedonali. Abbiamo preso dagli studi che hanno fatto in questi anni le fattispecie che potevamo introdurre nel codice penale, che erano... Ho capito, vabbè, insomma, quindi... questi sono al terzo livello, diciamo. Sì, sì. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. E adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. E allora la nostra domanda oggi è chiara: la nuova legge sull'omicidio stradale sarà sufficiente per far diminuire il numero degli incidenti mortali? Ecco Mario, tu pensi che questa legge basta? Ben venga la legge, però certo non è che basta la legge, l'abbiamo appena detto tu anche con l'intervista alla Morani, cioè serve applicarla. Poi dobbiamo considerare una cosa che secondo me invece è quella fondamentale, cioè che gli stili di vita... Ahimè, sono profondamente sbagliati, soprattutto se li leghiamo appunto alla guida, e nel fine settimana noi assistiamo a un'ecatombe proprio. Vabbè, insomma, consumo di alcol, consumo di stupefacenti. Sabato sera, esatto, sì. E questo secondo me è molto legato all'educazione. E poi c'è un'altra cosa, che è la sbronza del terzo millennio. Cioè quale sbronza? Beh, l'uso del telefonino. L'uso del telefonino alla guida, che sta diventando una delle cause più gravi di incidenti. Pensa che nel 2014 a Roma hanno fatto 40.000 contravvenzioni per l'uso del cellulare alla guida, 18.000 nei primi sette mesi del 2015, e questa è una cosa gravissima. Basta che vi girate per strada e li vedete, sono pericolosissimi, insomma. Certo, questo non c'è dubbio. Ecco, il reato naturalmente è esposto. Prima si fa pochissimo, prima si difficile fa niente. Anche. È quello che chiedono i familiari delle vittime, che si sono riuniti in questi giorni a Montecitorio, proprio nei giorni scorsi. Io sono Stefania, la mamma di Mattia, 21 anni, che è scomparso insieme agli altri quattro amici sul raccordo anulare il 18 gennaio del 2012. E l'autista che li ha presi in pieno ha preso per questi cinque ragazzi 2 anni e 8 mesi. Io sono Patrizia, sono la sorella di Mario. È stato investito il 13 giugno del 2014 e il suo assassino è libero, senza permesso di soggiorno. Matilde 5 anni fa stava attraversando sulle strisce pedonali, in pieno centro abitato del nostro piccolo paese di Marciano, e è stata travolta completamente. La sua vita è finita 30 metri dopo le strisce. La persona che guidava dove è finita? Lei era una postina di Poste Italiane, era a fare il suo lavoro, non era né drogata né ubriaca. Era solamente distratta, non guardava la strada, per cui non si è accorta che Matilde era quasi al centro della strada, non è sbucata all'improvviso. Matilde è morta per la sua distrazione. Che pena ha ricevuto? 4 mesi di sospensione di patente, 20 mesi con 30 mesi, patteggiati a 20. Quindi nemmeno un giorno chiaramente scontato. Noi chiediamo che venga inserita la distrazione e che venga punita adeguatamente, perché questa signora non è stata punita adeguatamente, continua a distrarsi alla guida, perché l'ho io incrociata che era ancora al cellulare mentre guidava, nonostante avesse ucciso mia figlia. Ecco, sono storie naturalmente strazianti, e se la legge fosse già stata approvata le pene sarebbero state certamente certe e probabilmente anche adeguate. Ma chi ha veramente la sensibilità di come vanno le cose sulla strada sono quelli che le controllano e che si trovano anche a dover affrontare momenti drammatici come questo. Per 30 anni ho fatto il poliziotto della strada, so cosa vuol dire andare a avvertire una famiglia, e non dimenticherò mai quando in una mattina di una primavera in Romagna alle 5 del mattino andai per avvertire una famiglia che non sarebbe più tornata a casa, un ragazzo, per colpa di un ubriaco, e quando sono entrato nell'ingresso di questa casa, ghiaia, ingresso aperto, tutto spalancato, avevo già capito, suonavamo, non ci volevano aprire i genitori, perché quando alle 5 del mattino arriva la polizia a casa vuol dire che c'è un brutto presagio. Noi abbiamo il senso dell'impotenza di questi anni di impegno contro gli omicidi della strada, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, Raffaele Clemente, capo dei Vigili di Roma. Quindi c'è questo senso di impotenza di fronte agli omicidi della strada a parte vostra? Chiunque gestisce tragedie di questo tipo è tentato da sentire queste cose. Certo, ma da cosa dipende questa sensazione? Ragionare, perché è un trauma per l'operatore come per i familiari ricevere notizie e dare notizie di questo genere. È normale che l'operatore si senta sconfortato perché sente il dolore dell'altro. E lei nella sua esperienza ha avuto qualche volta questa idea di impotenza, insomma? Mi ha tentato qualche volta, ma io non posso concedermi questo tipo di sentimento perché devo badare agli altri. Ma quando le è capitato? Un giorno mi ha raccontato una storia di un ciclista che stava al telefonino, ha detto beh che faccio, mi ha molto colpito. Ma il problema è che noi operatori di polizia fronteggiamo fenomeni di massa, quindi vediamo tantissimi episodi, vediamo anche la parte quasi comica, c'è un tizio che in mezzo al traffico chatta andando in bicicletta, che secondo me bisogna vederla una cosa di questo genere. Bisogna dire una cosa, sì, che i morti sulla strada negli ultimi 10 anni sono calati molto. Sì, questo è vero. Questo l'abbiamo detto naturalmente. Certo. E allora io cosa faccio? Collego il cuore alla testa e in qualche modo questo mi conforta nel continuare ad operare. Perché questa cosa è avvenuta? Perché c'è stata educazione, perché la gente comprende, e quindi avere fiducia nelle persone e nella loro ragionevolezza. Cioè cresce l'educazione, l'autoeducazione civica, lei dice. Diciamo che le persone, i cittadini tendono a migliorare e non a peggiorare, almeno nella mia visione, ho fiducia nelle persone. Senta, ma per quanto riguarda la distrazione alla guida, che è una delle componenti della legge, abbiamo detto che le multe per uso di smartphone, eccetera, sono aumentate, ma sono sufficienti? È sempre questione di capire e comprendere. Noi operatori e i cittadini con cui ci confrontiamo, chattare nel traffico con il cellulare in mano, con la testa abbassata, anche un bambino di 3 anni capisce che è pericoloso. Occorre che diventi una consapevolezza istintiva. Ecco, senta, ma intanto i mezzi per attuare la dissuasione sono sufficienti? Vorremmo avere eserciti di vigili, eserciti di poliziotti, eserciti di carabinieri. Tutti vorrebbero più mezzi, più uomini, ma il cuoco bravo fa la minestra con quello che ha. Certo. Senta, questa legge vi aiuterà secondo lei? Secondo me sì, aiuterà, sì. Avremo uno strumento in più, ma quello che bisogna continuare a dire alle persone: ragazzi, state attenti, tenete le mani sul volante, ricordatevi che state conducendo un mezzo pericoloso. E continuare a dirlo in continuazione. Senta, ma c'è una cosa da suggerire al legislatore che ha la legge in itinere? Io non da funzionario di polizia da esperto che sta sulla strada. Sì, si è interpellato, ma è una mia politica personale non dare suggerimenti pubblici al legislatore. Non è un è una mia la sua è una politica. Delle prime cose, esattamente, va che bene. Dovrebbero farlo anche gli altri, secondo me. Tantissimi SMS naturalmente che raccontano storie, esperienze, che danno consigli. Guido ci racconta addirittura: ieri ho incrociato un'auto il cui conducente guardava un video sul telefonino mentre guidava. Questo ci dice Guido. E invece qualcuno dà suggerimenti. Mattia dice: liberalizziamo i taxi, che così se uno è ubriaco può prendere un taxi a basso costo. Nelle grandi metropoli funziona così. Noi restiamo sempre indietro. Ciao Mattia. Va bene, questa è una ipotesi. In ogni caso, chi sopravvive deve far valere il diritto, chiedere la punizione esemplare del colpevole. Questo è il sentimento comune. Manuela Rinaldi ha scritto un manuale intitolato La guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, l'accertamento e il processo. Ecco, avvocato Rinaldi, che cosa devono fare subito i familiari delle vittime di un incidente stradale? qui ci sono due strade, ovviamente quella del penale, quindi praticamente anche eventualmente una costituzione di parte civile all'interno del processo penale, e una richiesta anche di risarcimento danni anche in sede civile, quindi per... Cioè il risarcimento civile è possibile, esatto, subito? Sì, c'è una richiesta di risarcimento, il cosiddetto danno tanatologico praticamente, quindi quello che è il danno da morte, diciamo, della vittima, sì, del congiunto. E chi è che può chiedere il risarcimento di questo danno da morte? Insomma, chi lo può chiedere? Tecnicamente si dice legittimato ad agire. Sì. Ovviamente sono i prossimi congiunti, e quindi parliamo della famiglia, diciamo, sì, della famiglia nucleo, del nucleo familiare, quindi della cosiddetta famiglia legittima, che possono agire iure proprio. Quindi che cosa significa? Possono agire indipendentemente dal fatto e dalla loro qualità di eredi per la richiesta di risarcimento del danno. E chi sono questi prossimi congiunti, parlando proprio tecnicamente? Sono ovviamente il coniuge, i figli, anche in tenera età, quindi non necessariamente maggiorenni, i genitori, quindi le fratelli e le sorelle, quindi tutti questi componenti ovviamente del nucleo della familiare, famiglia, sì. E però si è allargata, diciamo, anche soprattutto con l'intervento della giurisprudenza, anche con le ultime novità proprio anche della cosiddetta convivenza more uxorio, anche alla cosiddetta famiglia di fatto, quindi una delle ultime sentenze proprio del 2014 della Cassazione, che ha riconosciuto il risarcimento del danno anche alla, anche famiglia, alla di, famiglia fatto. Di fatto, ovviamente a patto che si dimostri, a condizione che si dimostri che questa, diciamo, esistenza, naturalmente, che sia una convivenza reale, quindi sia, sì, come un legame, diciamo, del rapporto coniugale, ecco. Senta, i magistrati, avvocato sì, Rinaldi, i magistrati finora hanno applicato le norme esistenti con durezza o sono stati troppo teneri con chi ha provocato incidenti mortali alla guida? Forse sono stati un po' troppo morbidi nell'applicazione, diciamo, di queste norme, dovute al fatto forse anche proprio della genericità del, diciamo, delle norme. E quindi in questo senso la legge precisa, sì, e alza poi soprattutto le pene, sì. Guardi, c'è stata, all'entrata. Ecco, vorrei citare solo una sentenza perché è emblematica, anche, sì, perché è abbastanza recente, è di settembre, è del 37-606 della Cassazione, che, diciamo, sta dando una spinta proprio al reato, diciamo, di omicidio. Perché cosa dice? Del reato di omicidio stradale, perché dice che si deve qualificare proprio come omicidio volontario, sorretto, la parola tecnicamente è il dolo eventuale, quindi questo dolo eventuale. La condotta di questo imputato che sia difforme talmente tanto da quello che è previsto dal codice della strada, che quindi dice: se si mette alla guida questo soggetto prevedendo la possibilità di incidente mortale, quindi considerando ovviamente la sua guida sconsiderata, ha continuato la sua condotta illegittima, e quindi è tale che si deve considerare omicidio volontario. Va bene, questa è la Cassazione che spinge davvero, sì, in questa, sì, direzione. Settembre 2015, ecco, quindi, ecco, ci stiamo avvocando forse. Avvocato, ma quando si affronta una causa come questa, cosa non bisogna mai sottovalutare? Allora, non bisogna probabilmente sottovalutare la condotta del soggetto agente, cioè di chi ha provocato sì, l'incidente. Sì, di chi ha provocato perché? L'incidente. Perché in genere cosa fa? Allora, purtroppo ci sono, permettetemi il termine, degli escamotage, forse per evitare anche il fatto di essere imputati poi in un procedimento di stato di ebbrezza. Ad esempio, l'accertamento della guida proprio in stato di ebbrezza a distanza di tempo. Cosa significa? Che se io non prendo il soggetto nell'immediatezza del fatto, ad esempio mi rifiuto di sottopormi all'alcol test, o comunque l'accertamento arriva a distanza di tempo, molto spesso questa prova poi in tribunale non vale, è data, diciamo, a discolpa dell'agente che ha commesso invece questo reato. Lo stesso è il caso del veicolo fermo, ad esempio, quindi nel caso in cui il soggetto venga ad essere fermato e già il veicolo, l'autoveicolo, diciamo, era fermo, e quindi la prova in questo caso anche qui può essere insufficiente. O anche molto spesso, questa forse è più una cosa tecnica, quindi un accertamento mediante l'etilometro ed un volume insufficiente. Va bene, quindi esistono una serie di escamotage, sì, che possono, sì, essere utilizzati da chi ha provocato, sì, l'incidente, che, sì, servono a giustificare o comunque a difendersi nel comportamento, alimentare, sì, limitare i danni, insomma. Sì, esattamente. Ecco. Molto. Ma le assicurazioni che ruolo hanno in genere? L'assicurazione ha un ruolo anche qui molto molto importante, perché sono le prime che in qualche modo tendono a limitare il danno, perché sono le prime che in caso di accertamento della responsabilità sono le prime chiamate al risarcimento del danno, devono come pagare. Dicevamo prima, quindi sono quelle chiamate a pagare, quindi anche qui l'assicurazione ha un ruolo fondamentale. Ecco, ma questa legge da questo punto di vista risolve qualcuno di questi problemi? Fa una certa chiarezza oppure resta, al di là delle pene che si sono alzate, resta un'ambiguità? Io credo che possa essere un qualcosa in più per quanto riguarda le modifiche che ci dovrebbero essere per quanto riguarda il codice della strada, ovvero le sanzioni di tipo amministrativo, quindi il fatto di revocare la patente, quindi ad esempio una revoca della patente fino a 30 anni parliamo, è stato il limite, quindi diciamo nei casi ovviamente più gravi, e quindi ecco la modifica del codice della strada forse in qualche modo aiuta anche questo, quindi non solo sanzioni di tipo di illecito penale, quindi praticamente l'introduzione ma anche diciamo amministrativo, e anche una prescrizione raddoppiata per l'omicidio stradale, tecnicamente parlando anche la prescrizione della richiesta di risarcimento, quindi in caso di omicidio stradale. Tanti naturalmente gli SMS che continuano su tutti i piani a raccontare storie. Qualcuno in particolare, ad Alberto da Milano, dico certo che il senso civico si può avere al nord, al sud o non avere, perché non è un problema di accento naturalmente. Pietrangelo, ti vedevo un po' pensieroso. Stavo appunto pensavo alla spiaggia che corre da Donna Lucata a San Pieri, che tutti conoscono perché è quella di Montalbano, alla strada che la costeggia, è puntellata da monumenti particolari. Sono veri e propri monumenti a monito, cioè sono le carcasse delle automobili che stanno lì a ricordare che cos'è un incidente stradale. Ed è qualcosa che entra proprio nel destino, inaspettatamente. Quindi è complicato anche per il legislatore immaginare come fronteggiare qualcosa di simile. Tant'è vero che noi lo percepiamo come può essere una disgrazia. Io stesso, per esempio, ho una zia che è morta in un incidente stradale, quindi ne ho memoria. Certo. E che cosa c'è? C'è anche un'identità forte, tutta italiana, legata alla macchina. Tant'è vero, ve lo ricordate questo clacson? Quello del sorpasso, certo. Il film di Dino Risi, dove c'è appunto il racconto di una morte improvvisa che viene liquidata dal protagonista alla domanda: ma chi è il morto? Boh, non lo so, è uno a cui ho dato un passaggio. E questa morte molto spesso è come un passaggio inaspettato. Ecco, i dati dell'Istat, l'abbiamo annunciati, sugli incidenti stradali del 2014 sono appena stati comunicati. Abbiamo Angelo Sticchi, Damiani, che è il presidente dell'ACI. Buongiorno. Ecco, intanto grazie, so che è in diretta in conferenza stampa. Volevo soltanto avere le ultimissime: quali sono i dati significativi che avete dato? Purtroppo non sono dati confortanti, diciamo tre sono le novità e tutte e tre negative. Intanto quel trend positivo che vedeva una riduzione sensibile degli incidenti, dei feriti e dei morti si è fermato, anzi si è invertito. Si è invertito nel 2015 con dati parziali, ancora sì. Nel 2014 possiamo parlare soltanto di uno stop. Sappiamo, però senta, fino a quando non avremo tutti i dati, naturalmente, perché non possiamo dire nulla. L'altro dato negativo, ahimè, purtroppo un pochino preannunciato dall'ACI, perché noi siamo molto preoccupati delle morti che ci sono nelle aree urbane. Cioè, in particolare, cioè nelle città, più morti nelle città? Sì, siamo arrivati al 44,5% dei morti. Nessuno immagina, neanche lontanamente, che poco meno della metà dei morti sono in città. Ma da cosa dipende il fatto? Perché dovrebbe essere una guida più lenta, più attenta quella, no? Purtroppo sono tre i fattori, anche qui, sempre tre. Allora, le utenze deboli, quindi stiamo parlando di pedoni, e stiamo parlando di ciclisti ovviamente, ma poi anche gli automobilisti, perché le spiego. I pedoni, noi diciamo da molto tempo che bisognerebbe prestare maggiore attenzione nel realizzare gli attraversamenti pedonali, soprattutto in periferia e soprattutto nelle zone meno illuminate. Certo, l'illuminazione conta moltissimo, naturalmente. Esatto. Noi abbiamo proposto anche in commissione. E la patente a punti? Ha perso molto della sua... Cioè non stimola più a essere attenti, perché ci sono scamotage per evitare? Beh, sì, un po' di scamarelli ci stanno, dire che guidava la nonna, eccetera, cioè, ma non è, diciamo, soltanto quello il problema. Come tutte i deterrenti perdono. Funzionano un pochino. E poi c'è Mario, sai che vuol chiedere una cosa? Buongiorno, presidente. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Niente, volevo sapere questa cosa del telefonino, quanto sta incidendo, per esempio, appunto su questo dato urbano che mi sembra incredibile. Ma senta, il dato urbano, dicevo prima, utenze deboli e purtroppo anche in croce a raso, soprattutto sì, in periferia, anche se siamo aforizzati, ma sappiamo che la notte sono lampeggianti. Noi da una vita, un paio d'anni, due o tre anni, predichiamo che i comuni, tutti i comuni, perché alcuni lo fanno ovviamente. Quindi la manutenzione, diciamo 50, che la manutenzione esatto, pubblica è fondamentale. Direttore, direi più che manutenzione ci vuole anche un po' di progettualità. Ah beh, naturalmente. Se il 50%, già la manutenzione sarebbe tanto. Lo so, ma se il 50% delle multe fosse veramente speso in sicurezza stradale, noi veramente potremmo sostituire in croce a raso con delle rotatorie. E questo è importante, certo. Le morti in città avvengono tra automobilisti con l'urto laterale. L'urto laterale, lei ha un contraccolpo, con la testa sbatte contro il montante. Certo, con le rotatorie questo sarebbe evitato. Esatto, naturalmente, perché non c'è l'urto laterale, lo diciamo, lo sosteniamo, in fondo entrano veramente tante tante risorse nei comuni attraverso le multe, basterebbe, ripeto, fare questo tipo di investimento, che è un investimento per la sicurezza, in fondo sono soldi che vengono dagli utenti, dagli automobilisti, ed è giusto, certo, che sarebbe giusto che fossero investiti nella qualità della loro sicurezza, naturalmente. Esatto, ecco. Questo è un fatto importante, ma poi ripeto, ci vuole anche nei confronti dei ciclisti. Vede, le piste ciclabili sono importanti, ma devono essere delle piste ciclabili sicure, altrimenti sono delle trappole. Certo. Se gli incroci non vengono opportunamente segnalati, qualcuno si trova di colpo a interessare strade carraie senza rendersene conto. Certo. Cioè, sono piccole cose a volte. Beh, piccole cose che salvano la vita, però. Grazie. Presidente, volevo chiedere un'ultimissima cosa. Questa legge, secondo lei, potrà aiutare la diminuzione ancora degli incidenti e dei morti, soprattutto? Io penso questa cosa, che è molto importante a livello psicologico. Il fatto dell'omicidio stradale è una parola che indubbiamente fa effetto. Io ricordo, per chiudere, che i morti quest'anno sono stati 3.381 nel 2014 e 251.147 feriti. Mix 24. Beh, abbiamo Gaetano? Gaetano, sì, da Roma, buongiorno, dica. Buongiorno, senta, no, volevo segnalare, diciamo, la mia vicenda personale. Dica. Dopo 43 anni dall'incidente in cui è morto mio padre, siamo stati risarciti e mio fratello quest'anno praticamente, con una somma evitoria di, penso, 55.000 euro, perché l'assicurazione dell'epoca fallì, è intervenuto il Fondo Nazionale delle Vittime della Strada con i massimali vigenti all'epoca, che chiaramente sono molto diversi e con una sensibilità assolutamente diversa rispetto a questi temi oggi. Secondo me 40 anni, diciamo, 43, 43 anni. Accidenti. Oggi ne ho 49 e avevo 10 anni all'epoca. Vabbè. Secondo me bisogna affrontare con maggiore decisione, oltre al, diciamo, al reato di omicidio stradale, il tema delle assicurazioni e il funzionamento del Fondo Nazionale Vittime della Strada, perché certo, anche in questi casi, diciamo, c'è un ed essere martellanti anche nella pubblicità, nella qualità dell'informazione, sì, sicuramente. Grazie, perché Gaetano. Anche lo Stato non segue correttamente. Personalmente ho fatto ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo e mi sono trovato di fronte all'avvocatura dello Stato che si opponeva al mio ricorso, quindi per farle capire diciamo, la gravità della cosa. Sì. Auguri per il suo ricorso. Perché non si installano obbligatoriamente su tutte le auto il viva voce? Beh, questa sì, può essere anche questa prima cosa da fare, sull'uso del telefono, chiaro. Naturalmente, sì. Insomma, tantissime, tantissime reazioni. E torneremo ancora su questo tema, perché questo è un tema che naturalmente colpisce tantissimo. 40 anni di patente, 36 da autista, in linea, il mio motto è: in strada ci vuole fortuna, ma la fortuna va aiutata. Saluti da Roberto da Modena. Molti su quest'idea del taxi, il taxi che è sostitutivo integrativo nei momenti difficili, sì, da qualche parte l'hanno fatto per i ragazzi. Sabato sera ci sono, però posso dire, cioè, c'è una cosa che mi colpisce, cioè il fatto della sbronza libera. Sì. Posso dire, potrebbe anche andare bene. Il problema è che tu non ti devi mettere alla guida, certo, punto. Non devi guidare, non me ne importa niente se tu sei ubriaco, ma prendi, sei ubriaco. Ci sono molti paesi, soprattutto in paesi del nord, che hanno organizzato dei sistemi il sabato sera al di fuori dei pullman, al di fuori delle cineteche, delle biblioteche, delle discoteche. Biblioteche è un bel lapsus. Beh, perché l'ebbrezza, si ubriaca. L'ebbrezza che dà la lettura, nessuno alcol lo potrà mai. Canzone. Il mio pensiero vola verso te per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Allora, Pietrangelo? E allora, siccome capita che il cuore debba fare il viaggio contromano, cioè lasciare l'approdo di felicità e andarsene alla deriva, e andando alla deriva va dove sa e conosce la realtà, quella di non essere più in due. Ed è dedicato a Francesca questo brano di Tiro Mancino, perché mi ha chiamato Paolo stamattina. Sì. Lui era Paolo con le ali. Paolo di Francesca. Era con le ali alzate e ferme al dolce nido. E insomma, come l'aereo portate con Tiro Mancino. Con Tiro Mancino, per me è importante. Non male. Questo è un bel pezzo, questo è bellissimo. Una musica sempre più dolce. Suono di una sirena perduta e lontana. Bello, bello, bello, bello. Non si firma, ma dice una cosa intelligente. Sì. Questo. Volete una patente a punti efficace? I punti persi non si recuperano mai. E allora, Mario, andiamo con la bolla cattiva. Dai. Ah, dai, andiamo su queste tombe. Meraviglioso. Oh, Giovanni, in realtà l'imputato oggi è l'Occidente. Perché ci sono due o tre cose che stanno accadendo all'estero che sembrano delle minimalia, no? In realtà non è così. La prima riguarda Cameron, perché Cameron pare abbia rinunciato a presentare in Parlamento la mozione per l'intervento in Siria, l'intervento aereo, perché ha paura che gliela boccino, e a questo punto quindi il Regno Unito non parteciperebbe a missioni, agli strike dall'alto, diciamo, contro i terroristi in Siria. E questo già è un dato di fatto. Certo. Il secondo dato di fatto, cambiando, diciamo, posizione sul quadrante, ma restando sempre in un'area che ahimè è sconvolta dal terrorismo, riguarda la Libia, perché il Parlamento di Tripoli ha minacciato l'Unione Europea, che ha riconosciuto Tobruk, l'altro parlamento, e qui già c'è il caos. Insomma, siamo riusciti a riunificare la Libia. Cioè, ma ti rendi conto, questi ci minacciano adesso. Uniti contro di noi. Minacciano e dicono: vi invadiamo di migranti. Ora, qua secondo me c'è un dato macro di fatto grave, che è la ritirata dell'Occidente. Noi siamo arrivati al paradosso di avere unico personaggio, figura che agisce in quella che è Vladimir Putin. Assolutamente. E io devo dire, questa cosa mi lascia veramente interdetto. Non riesco. L'Occidente, se ci sei, batti un colpo. Se ci sei, batti un colpo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Scusanti non ce ne sono, soprattutto per l'atteggiamento e per le e per il comportamento che abbiamo avuto. Non parlo di partita tecnica, ma soprattutto parlo di responsabilità e di capire i momenti. Verde, di un bel verde rettangolare. Poi siamo rimasti in 10, dove Miran Pjanic non doveva contestare le due mani non fischiate dei giocatori dell'Inter, e il colmo è che lui si fa espellere su una mano vicino al corpo sua, e ci lascia in 10 e soprattutto ci lascia anche per la prossima del campionato. Ovviamente che non fa l'exploit sul gol preso, e che un portiere di questo livello ci deve permettere con la sua grande qualità di fare l'exploit, ma lo trovo in crescita. Anche lui forse deve mettere un po' più di cattiveria come i nostri attaccanti. Dunque, i giocatori possono essere criticati pubblicamente dai loro allenatori, con chiarezza, senza peli sulla lingua. È un nuovo modo di vivere il calcio, le sue regole e le sue eterne ipocrisie. Dunque i panni sporchi non si lavano più in famiglia, non è più vero in politica, nel mondo dello spettacolo, un po' dovunque. È la vittoria dell'individualismo e del mondo della comunicazione, che è arrivata anche nel tabernacolo più segreto, più difeso, quello dello spogliatoio delle squadre di calcio. I calciatori se ne faranno una ragione, ne guadagneranno i programmi sportivi, che saranno più divertenti e più pepati. Lo ha scritto ieri sul giornale Giuseppe De Bellis. Ecco, Giuseppe, è stata sdoganata dunque la critica pubblica degli allenatori verso i loro calciatori. Sarà vero anche il contrario? Sarà vero, questo lo vedremo. Cioè sentiremo finalmente cosa pensa Buffon di Allegri, delle sue 100 formazioni, o Totti di Garcia? Allora, io temo che questo sia difficile, ma devo dirti che penso anche che sia ingiusto in questo caso, perché l'allenatore è uno ed è lui che deve compiere le scelte, quindi ha anche il diritto di poter criticare i giocatori che sceglie o che non sceglie. Il calciatore, che invece è, tra virgolette, il dipendente dell'allenatore, deve accettare, e quindi è più giusto che taccia. Quindi anche quello che pensa Buffon di Allegri o Totti di Garcia non lo sapremo mai in pubblico? No, sarebbe bellissimo saperlo e mi auguro che prima o poi anche questo avvenga. Temo che ci vorrà più tempo. Quindi la vera domanda è: la corrida è iniziata? La tua risposta è No, è cominciata una nuova era, almeno questo è quello che certamente ho visto in quest'ultima settimana. E se sarà una corrida lo vedremo. E comincia a essere un mini ring, un mini ring, insomma. Quindi il coraggio di parlare per i calciatori, secondo te dovremmo aspettare ancora un po'? Sì, direi proprio di sì. Sicuramente sì. Non capitare le società come reagiscono perché in fondo è anche un po' un compromettere un patrimonio in qualche modo, no? Perché i calciatori sono sempre sul mercato e sono il patrimonio delle società. Questo sì, io credo che però la società, le società reagiscano, debbano reagire bene, perché se l'allenatore che appunto compie le prime scelte è il loro primo manager, se la interpretiamo appunto come delle aziende, è giusto che l'allenatore faccia questa funzione da amministratore delegato, e come un amministratore delegato si assuma la responsabilità anche del depauperamento eventuale dei calciatori. Dopodiché se questo dovesse avvenire, ne pagherà le conseguenze anche l'allenatore, perché certo, ciascun calciatore può commettere un errore, è giusto che venga criticato, dopodiché se lo ripete 4-5 volte l'allenatore si deve porre un problema ed eventualmente trarne le conseguenze anche personali. Vabbè, quindi Giuseppe, per sentirne veramente delle belle dovremmo aspettare ancora la prossima puntata. Io sono già contento di averne sentite un po', e rispetto a prima almeno è caduto questo velo di ipocrisia. È caduto un muro, terribile. Questa ipocrisia terribile, che rendeva anche noiosissime tutte le conferenze stampa e tutti gli incontri, perché non si poteva mai dire nulla, insomma, sostanzialmente. Più che altro tutti gli addetti ai lavori sapevano già, prima della domanda, la risposta, esatto, che era onestamente poco interessante. Per noi è un poco interessante, soprattutto per i telespettatori, gli certo, ascoltatori o i lettori. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mr. Pistorius, please rise. È stato l'ultimo giorno da uomo libero per Oscar Pistorius, che dopo 7 lunghi mesi di processo è stato condannato a 5 anni di carcere per l'omicidio colposo della fidanzata Riva Steenkamp, uccisa il 14 febbraio 2013. Il campione paralimpico è stato trasferito presso il carcere di Pretoria. A meno di 3 anni dalla morte della fidanzata e dopo circa 1 anno di carcere, Oscar Pistorius torna a casa per scontare lì il resto della mite pena a 5 anni inflittagli per aver ammazzato Riva Steenkamp la notte di San Valentino del 2013. Una sentenza, quella di primo grado, che non ha mai smesso di suscitare indignazione tra coloro, in primo luogo i genitori, che si dicono certi che Blade Runner abbia ucciso deliberatamente. Ma la vicenda processuale è ben lontana dal potersi dire conclusa. Tra poche ore conosceremo le decisioni dei giudici della Corte d'Appello. Michele Farina, autore del libro Enigma Pistorius, il suo pronostico? Secondo me non è finita qui, secondo me ci sarà un nuovo processo. Quindi non sarà liberato? No, non sarà liberato. Cioè, diciamo, non sarà assolto? La Corte può confermare la sentenza di primo grado, naturalmente, può emettere un verdetto lei stessa, oppure può ordinare... Ma il suo pronostico? La mia impressione è la mia impressione, naturalmente. Naturalmente. Nel Sudafrica di oggi è un Sudafrica dove gli studenti protestano, dove la leadership è in crisi, è sotto pressione. Il caso Pistorius ha suscitato molte proteste, quindi è nelle cose che la storia non finisca qua. Ecco, Tyson, O.J. Simpson, oggi Pistorius. Perché i gesti criminali dei grandi campioni suscitano così tanta curiosità? Ma il caso di Oscar Pistorius è particolare perché è legato al Sudafrica di Nelson Mandela. Pistorius è stato un simbolo, direi proprio con Mandela, no? Di quel Sudafrica nuovo, la nazione in cui tutto era possibile, la tolleranza, la capacità di bianchi, neri, normodotati o senza gambe di riuscire. Mandela non c'è più, è un esempio inascoltato. Pistorius è caduto e quindi la sua caduta in qualche modo è stata ancora più fragorosa. Mix 24. Salamino Pietrangelo. Bambole, non c'è una lira, così si sarebbe potuto dire al tempo della lira, e adesso che invece ci sono gli euro c'è la ripresa, però i tagli sono inesorabili e Matteo Renzi apre un fronte interno e lo apre contro il sistema delle regioni. Si arrabbiano un poco e ha urlato, ha detto eliminate gli sprechi, e poi ha detto le regioni non potranno aumentare le tasse, ma ha aggiunto, e immaginiamo pure il ghigno, non volendo dire il sorriso, ci sarà da divertirsi. Che cosa è successo? Allora, in un certo senso aveva ragione Beatrice Lorenzin quando ha detto che affidare la sanità alle regioni, e l'ho detto qui, è stato un errore fatale. E si apre il fronte interno, per cui la guerra già la deve condurre Matteo Renzi dentro casa, perché per esempio Deborah Serracchiani si è già sollevata in difesa del sistema regioni, e così Sergio Chiamparino. Ma lui come risponde? Ci sarà da divertirsi, perché l'argomento qual è? Quello di aumentare le tasse. Quello che vorrebbero fare le regioni. Allora, stasera c'è la riunione del gruppo parlamentare della maggioranza e si vedrà dove arriverà il divertimento. Ma vorrei dire, se ha ragione la Lorenzin, fu un errore fatale dare la sanità alle regioni. Errore fatalissimo fu cancellare le province e tenere in piedi le regioni, che sono le mappazze fondamentali degli sprechi e della burocrazia. E quindi... io di solito che sono... C'è una novità clamorosa, vorrei uno squillo di tromba, perché c'è Pietrangelo Buttafuoco renziano. No, non renziano. Vabbè, insomma, sto dicendo, dando ragione. Voglio vedere. Hai capito, questa è una novità, applausi. Mi sto alzando e me ne sto andando, non dico altro. Ah, vuoi essere l'unico? Certo. Allora, io vorrei vedere fino a che punto arriva questa capacità rottamataria. Perché non è possibile. Lui è in guerra con la Serracchiani e va bene, è in guerra con Chiamparino e va bene, è in guerra anche con Enrico Rossi, il governatore di Toscana, e qui la regione diventerà contado. Mi chiedo, arriverà il Duca Valentino a questo punto? E poi rottamando, non è che gliela dà una batosta all'autonomia regionale siciliana, e lì lo voglio vedere. di arrivare lì. Hanno fatto una riunione. Vedi, un'alleanza, un'alleanza butta fuoco Renzi contro l'autonomia. Capitano cose. Possiamo riproporlo un ministro della cultura. Un applauso, ci vuole un applauso assolutamente. Questi scroscianti, perché li fai solo a lui? Io sono geloso. No, vabbè, ma perché questa è una notizia. No, vabbè, che tu stai con la Boschi, hai fatto paginate. Ma scusa, ti ha ringraziato? Certo. Ah, va bene, una cosa intima. Vai con la tua bolla. Eh? Ha preso l'aperitivo con la Boschi. Senti qua. Insomma, questo è Speed Demo, Michael Jackson. È un brano vecchio, però c'aveva un ritmo, ho sentito. Bello, un genio. Allora, non solo Volkswagen, Giovanni, perché sono usciti i dati di BMW. Sono molto interessanti appunto perché le prospettive del mercato dell'auto sono anche quelle della produzione industriale in tutti i paesi dove l'automobile è un traino, un'industria importante appunto. E BMW, dicevo, profitti più 4%, fatturato dell'ultimo trimestre a 2,35 miliardi, ricavi complessivi oltre 22 miliardi e un utile netto a 1,58 miliardi. Ragazzi, questi sono numeri eccezionali. E prima di dichiarare morta l'automobile tedesca, ce ne vuole. Ma guarda, c'è un'altra notizia. Non è possibile. Dai. Oggi è scatenato. Dai. No, voglio dire. Cioè, io sto dai numeri BMW. Quei due stavano. Vabbè, io non dico altro. No, perché teatrino Alessandra Ghisleri, che è artefice dei sondaggi, ha colto il vero senso della questione. Della notizia. E cioè, mi fa sapere, le regioni non vanno al voto, quindi Renzi può fare gli sfracelli. Questa non è male. Vabbè, siete male. Veramente tutti quanti delle piccole serpi che dite. Adesso. Senti, adesso c'era un'alleanza, lasciamola, era bella, era un'alleanza che funzionava, butta fuoco Renzi. Letta meglio, però è stata interpretata dalla Ghisleri, grazie del consiglio. Adesso con il professor Roberto Bernabei, come al solito, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. American Journal of Epidemiology, settembre 2015. I trend degli incidenti automobilistici secondo la condizione socio-economica. Professore, fanno più incidenti i ricchi o i poveri? Cambiano i trend? Beh, dovete sapere che la mortalità per incidenti stradali è diminuita del 40% per un mucchio di fattori. Certo. Si consuma meno alcol, comunque la gente c'ha paura dell'alcol, ci sono le cinture di sicurezza, le automobili sono molto più rinforzate, sono molto più facilmente guidabili o hanno dei freni magari. Ma ci sono dei limiti di velocità molto più stringenti. Però nessuno è mai venuto in testa di vedere quanto conta l'ineguaglianza sociale, cioè la diversità, ricchi e poveri. Ricchi e poveri è un parametro che bisogna sempre considerare perché ci si accorge che ci sono delle differenze sostanziali. E i ricercatori sono andati a vederlo anche sugli incidenti stradali. Perché sono partiti dal fatto che, com'è o come non è sempre negli Stati Uniti, gli incidenti stradali sono da 2 a 5 volte più alte negli indiani primitivi e nei nativi dell'Alaska, che sono notoriamente gente abituati ad andare a cavallo oppure con la slitta. E comunque gente dal reddito certamente inferiore al medio americano. E allora qui si è confermato, ed è il livello di educazione in particolare, che evidentemente nei benestanti correlato è maggiore, e chi è che ha fatto l'high school ha meno incidenti, cioè il liceo, ha meno incidenti stradali e di fatto ha una capacità quindi di sopravvivere, c'ha le varie fortune di sopravvivere di più rispetto a chi è che invece ha meno educazione e meno denaro. Insomma, meglio ricchi che poveri. Come sempre. E per chiudere, Lorenzo, anzi no, si chiamava Giovanotti all'epoca, si va via. E io che da 10 anni torno a casa a quest'ora, all'ora che di solito la gente poi lavora, girando le statali dalla 1 alla 1000, ho visto tante macchine poi farle scintille, con la carrozzeria che poi grattava il catrame, ho visto le lamiere diventare come lame, sull'asfalto ho visto macchine come lattine di aranciata, cartocciarsi intorno a un albero dopo una sbandata. E allora non c'è sabato che in una provinciale, senza lo stronzo che mi sorpassa male, in curva sulla destra mi passa 180, diretto verso il buio di questi anni 90. E io sono un DJ, lunedì c'ho la nausea, non posso poi non chiedermi qual è la causa.